Ti voglio raccontare un episodio di un partigiano che quello lì l'ho salvato e dopo non l'ho mai più rivisto. Beh, ecco, fa niente. In quel giorno lì che è arrivato i tedeschi, erano già arrivati i tedeschi, e questi partigiani sono scappati su per andare all'ospitale. Un partigiano, io andavo a Madonna del Ponte per andare su al Sasseto, che scappavo da Fanano. Ho trovato un partigiano che veniva lì a Madonna del Ponte, c'erano i tedeschi. E lui era al ponte del mulino laggiù, che veniva in su e veniva verso Fanano. Dico: ma dove vai? Vado su ospitale. Su, e dico: vieni, no, non andare su di qui perché i tedeschi erano a Madonna del Ponte. Vieni con me. Vieni con me, l'ho accompagnato su sopra al Sassetto. Poi siccome io dovevo tornare giù, allora l'ho nascosto sotto un legnaio di fascine. E ci ho detto: adesso vado a casa, vado a prendere, e lui aveva anche fame, poverà, perché era un più che mangiava, e dico: vaga qua, vaga tu in un pagnotto di pan, poi ti ritorno a prendere, poi ti accompagno io all'ospitale. E difatti io sono venuto a casa. Ho incontrato i tedeschi, io ero giovane perché avevo 16 anni e mezzo, neanche der 7. Mi hanno detto: dove vai? Dico: vado a casa che abito lì. Va bene, sono andato a prendere la fagnola di pane, poi ho fatto un altro giro. Sono andato giù dalla Valdicella, sono andato giù nel fiume, poi sono andato su al Sasseto e sono andato a scoprire questo partigiano che era là sotto questi legnai perché c'erano le mitraglie a Madonna del Ponte, ce n'ero lì al passetto, insomma che ne uccisero uno là in Pianco Radino, lo ammazzarono lì dove c'è il villaggio adesso, lo Schimendue. Poi ne ammazzarono uno lì dalla chiesa, insomma ne ammazzarono diversi partigiani. Allora l'ho accompagnato su, siamo andati su in Bassevedolla, abbiamo dormito lassù da chi la chiamava in Barbetta, in Bassevedolla, abbiamo dormito lì in una stalla, in un fienile più che altro. Poi la mattina l'ho portato su a Montemesano di sopra, sono andato là a Montemesano di sotto, quando sono stato là a Montemesano di sotto ho trovato una postazione partigiana e l'ho consegnato lì, questo partigiano, e poi sono ritornato a casa. Però non l'ho mai più rivisto nella lotta partigiana, ecco.